Ad alta voce. Marco Foschi legge La Gloria di Giuseppe Berto. Eri duro, Rabbi, più di quanto non avessi promesso. Duro non soltanto con me. L'assenza nel tuo sguardo, se per caso i nostri sguardi si incontravano, ma anche coi giudei. E non tutti volevano imprigionarti o lapidarti. Qualcuno avrebbe voluto credere in te. Ti chiedeva conforto per credere e non glielo davi. Ti dichiaravano: siamo incantati da ciò che dici, ma ti preghiamo, dicci chi sei. E tu davi risposte così oscure e ingarbugliate da scoraggiarli. Ci doveva essere qualche complicata ragione nel tuo voler essere incompreso. A Gerusalemme, coi tuoi discorsi da folle, con le maniere brusche, irritanti, tiranniche, tu, Galileo, eri andato a proporti oltre i limiti del mistero, dove nessuno poteva seguirti senza smarrimento o assoluta abnegazione. Eri andato a imporre un rischio o a conoscerne uno. Quando provocavi i giudei nel tempio, era per conoscere la loro disposizione ad accettarti illimitatamente, ardua condizione di salvezza, o la loro idoneità ad ucciderti. Tu eri certo che la tua ora non era ancora venuta, ne ricavavi più tracotanza che sicurezza, ma volevi sapere se giunta la tua ora sarebbero stati pronti a fare quanto era scritto dovessero fare. Però avessero anche accolto il rischio d'accettarti illimitatamente, che ci avrebbero guadagnato? Avresti portato al regno, assicuravi, ma e nel frattempo? Io che mi ero dato senza limitazioni, conservavo inquietudine e tormenti, e spesso ero tentato di pensare che ciò derivasse non soltanto dai miei dubbi, ma anche dai tuoi. Dicevi «io sono» e proponevi un infinito che doveva essere accettato per essere. Al momento era solo possibilità o ipotesi, un divenire che non si sarebbe realizzato senza il coinvolgimento d'ognuno, senza il confluire di tutti in un annullamento che era l'unica possibile gloria, la fine dei tempi. Questo pretendevi. Forse neppure per te c'era scelta. E il mio cuore si spauriva e la mente si perdeva. Non si trattava solo della mia morte, te l'avevo subito donata, ma della condanna del principio stesso della vita. La creazione del padre Adamo saltava fuori come un capriccioso errore dell'Altissimo, e forse l'Altissimo aveva stabilito che fosse tempo di porvi rimedio. E tu, cui era toccato questo compito estremo, smarrito e spaurito più di noi, parlavi d'amore per dare e ricevere sollievo. Io per amore e incantamento m'ero dato, ma non conoscendo il termine mi pesava l'attesa. Quel che c'era da fare era meglio farlo presto, se a ciò eravamo legati. Se qualcuno vuole seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Se qualcuno vuole, dicevi, e sapevi che era finzione. Incontrarti significava seguirti o essere destinati alla morte e dannazione eterna che minacciavi a coloro che non ti seguivano. Nell'incerta condizione di disporre di se stessi, caricavi l'uomo d'un intollerabile responsabilità di vivere, additando come esito una morte gloria o una morte dannazione, entrambi termini immutabili, eterni. Dicevi a chi ti pareva: il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. Allora consegnerà a ciascuno la retribuzione corrispondente alla sua condotta. La retribuzione corrispondente riguardava anche il posto alla tua destra o alla tua sinistra? Creavi in noi, i tuoi 12, una comprensibile rivalità e anche una lecita impazienza dell'evento, perché ci sentivamo, si sentivano, degni del premio, del posto. Io vi dichiaro solennemente che alcuni dei presenti non moriranno finché non avranno visto il Figlio dell'Uomo venire a regnare. Alcuni, non tutti, e non ero nel numero. Vedere l'avvento del regno non mi sarebbe stato concesso. Per la tua trasfigurazione scegliesti Pietro, Giacomo e Giovanni. Ad essi in visione mostrasti la tua gloria ed essi la videro. Io ero stato scelto per un altro compito, non ancora chiarito, solo era inteso che comportava impegno di morte. Sull'altra riva del fiume, nello stesso luogo dove il battezzatore aveva levato la sua voce preannunciante, centinaia e centinaia di persone erano convenute e altre continuamente ne arrivavano da ogni parte della Giudea e Galilea, per lo più in gruppi, cantando, pregando, portando malati da guarire, indemoniati da liberare, bambini da far benedire. Ogni tanto, qua e là tra la folla, si levavano grida di meraviglia, di esultanza, di ringraziamento. Qualcuno, magari uno che non aveva niente da spartire con noi, aveva compiuto un prodigio in nome di Gesù di Nazareth. Egli non lo impediva. Chi non è contro di noi è con noi, aveva deciso. Si respirava sulle rive del Giordano aria di trionfo. Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Taddeo erano tornati dalle loro missioni di apostolato, esultanti e imbaldanziti. Avevano annunciato al popolo l'avvento del regno. Avevano compiuto prodigi come era stato loro consentito. S'erano acquistati i proseliti in gran numero e in effetti molti li avevano seguiti per vedere quel Galileo di cui i discepoli dicevano che fosse l'unto promesso, colui che avrebbe liberato Israele dalle discordie, dalle malattie, dal bisogno, dal dolore di vivere e forse anche dai romani, per quanto di questo nessuno sembrasse darsi molta pena. Non si sapeva in quale modo tanta gente erano arrivati ad essere migliaia e la maggior parte d'essi era partita su due piedi senza portare con sé niente, potesse sfamarsi, ma accadeva che in qualche modo mangiassero e anche ciò finiva per apparire prodigioso. Invero ci doveva pur essere la protezione dell'Eterno su un così sterminato assembramento, nonostante che a ben guardare nella massa ci fosse più curiosità che fede, più stravaganza che preghiera. E inoltre, come sempre in simili occasioni, a coloro che cercavano l'unto per speranza o necessità s'erano mescolati ladri, spie, prostitute, giocolieri, venditori ambulanti e naturalmente dottori e farisei attenti al rispetto della legge, pronti a mettere sotto accusa astuti nel seminare maldicenza, tant'è vero che non erano infrequenti discussioni e liti, e nemmeno le imprecazioni e i pianti per qualche mancata guarigione o inopinata ricaduta nel male. Tuttavia la moltitudine, nel suo eterogeneo insieme, aveva una grandiosità spirituale, un fervore d'attesa, un'eccitata letizia. Si diffondeva come contagio la vaga sensazione che qualcosa prima fermo s'era messo in movimento, che s'era formata una saldatura tra la storia sacra che veniva insegnata nelle sinagoghe e la storia che si veniva facendo con la partecipazione di tutti. Molti pensavano alla Pasqua come ad un tempo di convegno, e la Pasqua non era lontana. Presso il fiume i cespugli non erano aridi come sulle alture e i mandorli già fioriti ora mettevano foglie. La Pasqua memoria d'una liberazione, avrebbe portato, si diceva, una liberazione nuova. L'Eterno avrebbe fatto sentire ancora la sua voce, fin d'ora si poteva invocarlo con fiduciosa allegria. 400 anni di silenzio erano prossimi a finire. L'ultima voce che aveva cantato così: «Ecco, il giorno viene, ardente come una fornace, e tutti i superbi e chiunque opera empiamente saranno come stoppia, e il giorno che viene li divamperà, e non lascerà loro né radice né ramo, ma per voi che temete il mio nome si leverà il sole della giustizia, e la guarigione sarà nelle sue ali, e voi uscirete e salterete come vitelli di stalla». Ma lui, il Rabbi, era triste. L'inguaribile malinconia. Spesso era anche lontano nel suo spirito, in qualche regione dove non era consentito seguirlo. Operava guarigioni, insegnava ai seguaci che gli si raccoglievano intorno, prescriveva preghiere, raccontava parabole, talvolta inveiva contro i dottori e i farisei che gli proponevano quesiti maligni per poterlo poi incolpare, faceva tutto, ma con diligenza più che con ardore. Come se l'ardore del suo animo fosse ormai assorbito da pensieri molto al di sopra della realtà che gli stava davanti, per quanto esaltante essa fosse. Non era più il Rabbi di prima. Nel suo coperto e ambiguo viaggio a Gerusalemme, nelle tempeste in cui aveva trascinato l'anima sua, nei silenzi e nei colloqui col padre, aveva maturato una risoluzione che lo staccava dalla terra e da noi. Non da tutti, però. Non appena gli impegni con la folla gli consentivano un po' di riposo, un tempo per se stesso, quando riteneva che l'affanno di quel giorno fosse bastante, allora si portava in disparte, noi intorno, a difendere la sua tregua. Se pregava, voleva star solo, ma quando la sua meditazione non era preghiera, quando i suoi pensieri erano di commiato e i presentimenti generavano sospiri, allora al giovinetto Giovanni era consentito avvicinarglisi, sedergli ai piedi, posargli il capo sui ginocchi e dividere la sua malinconia. Non ero geloso, ma avrei sognato per me quel genere di intimità. Il mio animo, oscuramente, dubbiosamente, tormentosamente, ancora voleva che lui m'ordinasse di impugnare una spada contro Roma e gli avrei fatto vedere quale braccio fosse il mio. Ma più andavamo avanti e più sospettavo che non m'avrebbe fatto morire impugnando una spada. Altri i disegni. Era un padrone duro. Non appena ne aveva l'opportunità, umiliava la mia incondizionata passione. Quando, arrivando ai guadi del Giordano, mi presentai a lui per rendergli omaggio, non avevo prodigi da riferire né proseliti da esibire, egli mi tese la borsa che gli avevo consegnato partendo. Io dissi: «Rabbi, consenti che il denaro non sia mio, ma di tutti». Rispose: «È di tutti. La borsa contiene non soltanto ciò che era tuo, ma anche offerte raccolte dagli altri. Tu terrai la borsa». Avrei voluto obiettare che per quel compito, tenere la contabilità comune, Matteo, che prima faceva l'esattore, sarebbe stato molto più adatto di me. Ma egli aveva già la mente altrove e non concedeva obiezioni. Sicuramente era stato Giovanni a suggerirgli d'ordinarmi di tenere la contabilità, per avere poi modo di dire, e lo disse, che siccome tenevo la borsa ero ladro. È sì vero che più tardi ebbi da fare con denaro poco pulito, i 30 denari, ma senza averne cognizione, per misteriosa ubbidienza. Io ero uno di quelli che avevano dato tutto unendosi a lui, e anche da prima egli avrebbe dovuto saperlo. Eppure non gli bastava. Continuamente mi sottometteva a nuove prove, forse per assicurarsi che sarei stato all'altezza della prova finale. Ormai era prossima. Ciò era nell'aria e nella gente. Zwischen uns und dir wälzt die Wogen ungeheuer. Ein gefräßiges Ungetüm. Un giorno, conoscendo che dottori e farisei andavano dicendo in giro che gli scacciava i demoni con l'aiuto del principe dei demoni, si irritò. Se io caccio i demoni con l'aiuto di Belzebub, con quale aiuto li scacciano via i vostri discepoli? Ma se invece li scaccio per la potenza di Dio, ciò significa che il regno di Dio vi sta piombando addosso. Proprio così disse, che ci stava piombando addosso, tremenda imminenza, però lasciava a noi, faceva sempre così, la responsabilità di districare la premessa. Se i demoni li scacciasse per la potenza dell'Altissimo o di qualcun altro. In quel clima di esaltazione collettiva pareva che tutti fossero più o meno in grado di scacciare demoni, e in virtù di chi o di che cosa fossero in grado di farlo era questione piuttosto controversa o futile, tanto che per credere in lui, nel Rabbi, non pochi chiedevano altri segni. Tra i chiedenti si intende dottori e farisei, i quali ad un certo momento gli dissero apertamente: «Rabbi, vogliamo che tu ci dia un segno», s'arrabbiò. «Razza infedele e adultera, perché chiedete un segno? Nessun segno vi sarà dato». Voleva significare che la sua presenza, il suo aspetto, la sua voce e lo sguardo sarebbero dovuti essere segni sufficienti per credere che lui era. In fin dei conti, disse, agli abitanti di Ninive era bastato l'annuncio di Giona per cambiar vita. Che cosa, quale segno pretendevano ora costoro, dal momento che si avevano davanti qualcuno che era ben più di Giona? Parlava soprattutto per me, naturalmente, benché il segno di solito non lo chiedessi proprio a lui, bensì all'Eterno, ma pareva che ormai dovesse essere la stessa cosa. Non c'era pietà né comprensione per il mio angosciato interrogare. Perché te ne stai lontano? Perché ti nascondi in tempi tanto difficili? Disse: non si accende una lampada per metterla in un armadio o sotto un recipiente. La si colloca nell'ingresso perché chi entra veda la luce. Era lui la lampada nell'ingresso, e io avrei dovuto vedere la luce con la forza del mio spirito. Invece non sapevo rinunciare all'altero diritto di capire. Così mi cercò con lo sguardo e me lo tenne addosso. Sta attento che la luce in te non sia oscurità. Non era giusto. Io potevo avere ben poca luce in me, ma chi poteva dire che non ci fosse oscurità anche in lui? Che cosa, oltre il suo potere di incantamento, la sua bravura nel far camminare gli storpi, nel dare la vista ai ciechi e l'udito ai sordi, nello scacciare demoni in abbondanza, che cosa oltre questo lo indicava come l'unto? Tu fai testimonianza da te stesso, gli avevano rinfacciato i dottori di Gerusalemme. Perché tanto restio al rischio di dare un segno inequivocabile di potenza o vanità? Segni non ne dava. Anche gli altri dandosi l'occasione, li trattavi con poca misericordia. Accresci la nostra fede, ti chiedevano, sapendo che per te la fede non era mai sufficiente, non era fede bastante proclamare forte che tu eri l'unto, credere che sarebbero stati con te nel regno, non bastava. Dicevi che se avessimo avuto un briciolo di fede, quanto un granello di senape, avremmo spostato colline o trapiantato gelsi in mezzo al mare. I segni che non davi tu, dovevamo darli noi? Spostare colline, non soltanto trafficare con demoni, muti e parlanti. Era l'assurdità dei propositi che causava l'inguaribile malinconia. Talvolta, però, soffocati i tristi pensieri, ritrovavi la fierezza dei primi tempi, di quando eri andato a sfidare la tua gente in patria, e quanto ti amavo allora. Dicevi: sono venuto ad appiccar fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso. Ti amavo anche quando pregavi: Padre, manifesta la santità del tuo nome, venga il tuo regno. Ma più ti amavo quando dicevi della tua angoscia ed ansia per il diverso battesimo che ti aspettava, perché sapevo che nel nuovo battesimo di morte io ero coinvolto e necessario. Già si era in cammino verso Gerusalemme. Naturalmente la moltitudine andavano e venivano, erano sempre nuovi, ma in un certo senso gli stessi, non ci seguiva. Solo i più convinti e disponibili, e numerose erano le donne, perché il rabbi aveva fiducia e stima di loro, predicava le cose che più le incantavano, amore e misericordia, e lo faceva soavemente. Per lui esse cantavano l'inno nuziale. Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli uomini. Dalle tue labbra la grazia straripa. Perciò Dio ti ha benedetto in eterno. Ora, stando in cammino, senza grande folla intorno, eravamo maggiormente esposti alle insidie dei nostri nemici. Un giorno, alcuni farisei, forse non era vero ciò che dissero, volevano solo creargli preoccupazioni, lo rincorsero per avvertirlo: sbrigati ad uscire da questo territorio perché Erode ti vuole far morire. Non si impressionò per niente. Non era certo una morte proveniente da Erode, quella nella quale doveva incontrarsi nel suo partire da questo mondo. C'erano ben altre aspirazioni e complicazioni, e forse anche scritture da osservare. E perciò disse: andate a dire a quella volpe che io sto qui a cacciar demoni e a compiere guarigioni ancora oggi e domani. Poi giungo al mio termine. Quindi riprenderò il cammino, perché non può essere che un profeta muoia fuori da Gerusalemme. La sua risposta, cominciata con spavalderia, era finita in tristezza. Disse ancora a bassa voce: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e ammazzi a colpi di pietra gli inviati di Dio. Era questo dunque il significato delle sue nascoste e solitarie visite a Gerusalemme: accertarsi che lì ammazzavano i profeti e gli inviati di Dio. Ci chiamò in disparte noi 12 e ci disse: ecco, stiamo salendo a Gerusalemme e tutto quello che i profeti hanno scritto del figlio dell'uomo si compirà. Sarà consegnato ai pagani che lo scherniranno, lo insulteranno, gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno. Ma il terzo giorno risusciterà. Essi, gli altri 11, quelli che lui aveva chiamato, quelli che non perdevano occasione di proclamargli che lui era l'unto, il promesso, il veniente, forse troppo impegnati a disputarsi i posti di preminenza accanto al trono del futuro regno, di tutto questo discorso non capirono nulla. Rimaneva per loro un mistero e non ne coglievano il senso. Io, il cuore stretto, esultavo. Questo era il principio della rivelazione, la connessione tra il fantasticare e la realtà, tra il parlare oscuro e la storia. I pagani che lo avrebbero offeso, tormentato e ucciso, non c'era dubbio che dovessero essere gli stranieri che occupavano la nostra terra. Come facevano a non capire gli altri? Deluso dalla loro incomprensione, il rabbi si chiuse ancor più nella malinconia, ma il suo sguardo non poté fare a meno di cercarmi, e i miei occhi ardenti gli rispondevano: «Non temere, rabbi, io sarò». L'ora viene ed è questa. Ormai lo dicevano tutti. La mia impazienza riemergeva. «Eterno mio Dio, affrettati a rispondermi». Segni segreti percorrevano la folla, si percepivano. Dal seno dell'alba la gioventù di Israele andava a lui come la rugiada. Alta sul monte, perfetta in bellezza, sebbene alquanto sprovvista di santità, Gerusalemme attendeva. «Quand'io grido, rispondimi, Dio della mia giustizia». Nessuna risposta a tanta ansia di compimento. Il suo andare verso la divinità, il trionfo, la gloria, l'autodistruzione o qualsiasi altra cosa si fosse messo in mente era piuttosto lento, disseminato di piccoli incidenti e fastidi. «Non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme», aveva detto con magnificenza, ma si attardava a fare futili discussioni, a compiere prodigi alquanto soliti che nulla più aggiungevano alla sua fama e grandezza. Guarire un cieco di più o mettere un altro demonio nel grosso numero di quelli già scacciati, che valore poteva avere ormai? Attraversavamo un giorno la città di Gerico, sulla via per Gerusalemme. Folta folla al nostro passaggio, e un uomo, piccolo di statura, non arrivando a scorgere il rabbi da dietro la siepe di persone, s'era arrampicato su di un sicomoro e stava lì appollaiato. E il rabbi, passandola appresso, alzò gli occhi e lo scorse e, benché presumibilmente non l'avesse mai visto prima d'allora, tante cose non sono spiegate, lo apostrofò chiamandolo per nome: «Zaccheo, scendi di lì, perché oggi voglio fermarmi a casa tua». Imminente la sera, era comprensibile che egli cercasse un riparo per la notte, una casa ospitale e sicura. Però quello Zaccheo, buffamente appollaiato sul sicomoro, una bella manifestazione di curiosità se non di fede, era assai ricco e, come quasi tutti i ricchi, anche assai poco di buono. Infatti, svolgeva funzioni di capo degli esattori delle dogane, cioè in pratica tirava fuori denaro dagli ebrei e lo consegnava ai romani, trattenendosene, ben inteso, non piccola parte. Un mestiere che il rabbi, stando a quel che andava insegnando, non avrebbe dovuto molto apprezzare. Tuttavia s'era invitato da solo, si può dire, a casa sua. E vedendo ciò, tutti, non solo dottori e farisei, cominciarono a mormorare risentiti che il Galileo che tanto si proclamava santo era andato ad abitare in casa di un empio. C'era poco da ribattere ad una simile accusa. Quello era un empio. Però non è detto che un empio non possa, in circostanze propizie, diventare pio. E questo precisamente accadde allorché il ricco Zaccheo si alzò per annunciare solennemente che avrebbe dato metà dei suoi beni ai poveri e che alle vittime delle sue estorsioni avrebbe restituito il quadruplo del mal tolto. Figurarsi quanto aveva tolto male.